Amici Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Chi se ne frega del crollo dei mercati mondiali, forse sarebbe una benedizione, torneremo a coltivare la terra e al baratto. Non c'entra niente, ma non male questo messaggio di Enrico. 800240024, sento che si ridacchia da quelle parti. Si ride, buongiorno a tutti, buongiorno. Beh, insomma, i mercati mondiali, adesso io non sono un grande appassionato di mercati, però ecco, speriamo non crolli. Magari crolla, no? Stavo sentendo America 24, c'era un platero scatenato. Scatenato, non benissimo, Abbiamo grandi ospiti, lo sai, no? Sì, lo sai. Me l'hanno detto. Poi abbiamo gli ascoltatori che sono scatenati pure loro. 800240024, diamo già la convocazione come Prandelli fa con Balotelli. L'hai detto 34esimo secondo di trasmissione. Guarda che oggi le conto. Allora, oggi non ne parlo. No, però in realtà oggi sei giustificato, perché insomma oggi c'è notizia, quindi e quindi non è accanimento, non è la tua perversione. Io non ne parlo, silenzio stampa su Balotelli. Ne parli tu. Allora, Juventus, il sogno nemmeno nascosto è o era quello di far strada in Champions League, però 1-1 a Copenaghen, che tu hai visto e commentato, per Luigi Pardo, 2-2 in casa con il Galatasaray di Mancini, la prospettiva di andare al prossimo giro sul campo di un Real che è già volato via con 2 vittorie. Allora io chiedo a te, chiedo a tutti gli ascoltatori, ce la farà la Juventus? Copertina. Attenzione a Drogba, salta Buffon, Drogba, sempre lui, sempre Didier Drogba. Pogba per Quagliarella, va giù, calcio di rigore. Fischia Cassai, Vidal, di forza, con tutta la rabbia della Juve del momento, fa 1-1. Al centro Quagliarella, a 3.5 dalla fine, Quagliarella, Drogba di testa, attenzione, incredibile, arriva il pareggio di Jupp Bulut, pazzesco, Jupp Bulut. Mi si chiama quello lì che ha pareggiato? Cioè, in realtà per me era Umut Bulut, perché io non sono un estremista delle pronunce, però questa fra i telecronisti ci sono varie scuole di pensiero, ci sono quelli che dicono Ietebori, Stromberi, anzi lo salutiamo Glenn Stromberg, dobbiamo ricordare che è un mito Glenn Stromberg, lo incontro ovunque, segue la Champions. Sì, mi piace di più quando non sale sui carri armati, ma questa è una storia. Ah, beh sì, lei sbagliava, lo sa pure lui, c'è molta gente che non è convinta, a cui quella pagliacciata è piaciuta, però lasciamo stare, anch'io non so, io sono per il parla come Magni, no? Sì. Ma allora ce la fa l'evento o no? Guarda, per me ce la fa, però diciamo che l'obiettivo era quello di una qualificazione leggera, magari con il miraggio e la possibilità di arrivare primi, che sappiamo che può essere anche decisivo poi in fase di sorteggio, poi lì c'è il fattore sfiga che può essere decisivo da una parte o dall'altra, però insomma è chiaro che se arrivi primo tendenzialmente va meglio. E invece io credo che la Juve sia destinata a un percorso come l'anno scorso, cioè un percorso in salita dove quasi sicuramente la partita decisiva sarà l'ultima in Turchia, Galatasaray-Juve, dove bisognerà capire se alla Juve servirà un solo risultato oppure basterà il pareggio. Ma ecco, la mia sensazione è che a meno di cataclismi in un senso o nell'altro, le prossime 3 partite, le 2 con Real e col Copenaghen, poi rimanderanno a quella decisiva. E certamente non è quello che voleva Conte, su questo non ci sono dubbi. Tu lo sai che Umut Bulut in turco vuol dire nuvola di speranza? Sì? Sì, ma insomma l'ha scritto Piantanida dalla redazione, se l'ha scritto Piantanida allora dobbiamo credergli, comunque, cultura enciclopedica. A proposito di fattore sfiga, trovare Mancini fresco di nomina su quella panchina, secondo me lì ha visto giusto Conte, non è stata una grande cosa per la Juve, Ma guarda, io penso che sia vero, cioè che comunque quasi sempre quando c'è una scossa da parte di un nuovo allenatore la si vede anche sul campo. Galatasaray, in realtà, chi aveva visto la partita con Real sa pure che poteva passare in vantaggio con Real. Poi però la partita è cambiata completamente e si è sgretolata. Io credo che la Juve sia nettamente superiore. La vera sfida di Mancini sarà quella di ridare energia e adrenalina a questi giocatori non più giovanissimi come Sneijder e Drogba, che però se vogliono possono ancora fare la differenza, magari non nelle 30-35 partite di un campionato, ma in una grande competizione come la Champions. 800240024, siete sempre tutti convocati. Ti dico che c'è già un messaggio: la finale di Europa League a Torino nel nostro stadio, forse, cioè c'è già evidentemente, immagino, una minoranza di tifosi della Juve che comincia a pensare, ma forse alla fine l'esempio del Chelsea l'anno scorso è stato interessante. No, chiaramente no, speriamo che la Juve vada avanti. No. Però comunque le idee sono altre. Però se per caso dovessi arrivare terzo e continuare, poi l'Europa League è divertente giocarla e vincerla, il Chelsea insegna. Il gol del pareggio del Galatasaray in Italia glielo avrebbero annullato, scrive Michele da Valenza, per fortuna siamo in Europa, quindi lasciamo stare, lì tutto si annacqua, le decisioni arbitrali diventano semplicemente decisioni arbitrali, non delle sentenze di cassazione o delle sentenze di condanna a morte. Dunque, strade, poi torniamo. Buongiorno a tutti. Notizie del traffico? Dobbiamo dare la linea al traffico? Pensavo ai tempi vostri. Tutti convocati. Senti, quando hai sostituito Terim alla Fiorentina, il primo risultato fu un pareggio in trasferta. Firmeresti? Ah, firmerei, anche tipo quel pareggio lì, perdevamo 2-0 a Perugia, poi facciamo 2-2. Sì. No. Firmerei per un pareggio perché sarebbe un buon risultato, positivo, e rimarremo lì a un punto dalla Juve, quindi con 4 partite da giocare sarebbe tutto aperto, sicuramente sarebbe un buon risultato. Ma vediamo, insomma, il calcio è così strano. Avrebbe firmato Mancini, non so se lo abbia fatto, ma il pareggio è arrivato. Ecco, caro Pierluigi Pardo, il primo dei grandi ospiti che hai annunciato, Gianluca Zambrotta. Ciao. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao Zambro, come va? Tutto bene? Che stai facendo? Ciao. Digestione? Che momento è questo della tua giornata? Facciamo un po' di Zambro verità. Sì, adesso che stai facendo? Oggi. No, adesso sono qua a casa, ecco. parlando con te, parlando con voi. Il pomeriggio poi ho allenamento. Non è come Oddo che ha allenamento subito dopo, quindi deve scappare. No. Ieri Oddo, insomma, l'abbiamo fatto di corsa perché doveva andare ad allenare i suoi ragazzi al Genoa. Ma tu vuoi fare l'allenatore? Vediamo, adesso sto cercando di capire, di spostare un po' la testa da giocatore all'allenatore, quindi entrare un po' nei miei di come può pensare un mister. Poi vediamo, eventualmente l'anno prossimo cosa succederà. È quella la cosa più difficile? Cambiare la testa, smettere di pensare per uno e pensare per 11 o per 22? Sicuramente quando uno è giocatore non ci pensa, sinceramente, nel senso, anche perché il ruolo del giocatore è quello di andare a campo, fare comunque le 2 ore e mezza di allenamento e poi se ne va a casa e poi comunque pensa di rendere nel miglior modo possibile la domenica. L'allenatore invece deve pensare a non solo a, diciamo, la rosa dei giocatori, ma a tutto il resto, quindi alle pressioni della stampa, alle pressioni del presidente, a come far giocare nel migliore dei modi la squadra, mettere giù un programma dettagliato della settimana in base comunque alle partite che deve affrontare. Insomma, è un bel lavoro. È un lavorone. Stiamo tergiversando. Zambro, la Juve ce la farà? Perché questa è la domanda del giorno. Sicuro, 100%. Sicuro al 100%? No, sono convinto. Insomma, ieri poi ho visto la partita, sia quella contro il Copenaghen, ho visto comunque sia la partita ieri sera, sicuramente ieri un primo tempo secondo me sottotono dei ragazzi del mister Conte, molto meglio nella ripresa e sinceramente anche nella prima partita non meritava quel pareggio, quindi un evento che comunque parte sempre male comunque all'inizio e poi si risolleva poi mano a mano che va avanti. Guarda, io sono abbastanza fiducioso. Anch'io sono fiducioso. C'è la domanda della nostra ascoltatrice, in realtà è un commento che però trasformo in domanda. Sì. Paola, che dice: ma Conte non riesce più a spremere dai suoi quello che ha spremuto gli anni passati? Cioè, indipendentemente dalla qualificazione, se arriverà, se non arriverà, è una Juve un po' meno tonica, un po' meno intensa, e perché secondo te? No, secondo me le due differenze tra comunque il campionato rispetto dei due anni fa o dell'anno scorso è che comunque si sono chiaramente rinforzate le altre squadre, perché comunque quest'anno il Napoli è molto più forte, l'Inter è molto più forte, c'è cioè comunque una Fiorentina comunque che gioca sicuramente forse il più bel calcio del campionato italiano, c'è comunque un Milan che è sempre lì, quindi credo che per quanto riguarda il campionato si è un po' livellato tra quelle 4-5 squadre. In Coppa Campioni secondo me il gap con le altre grandi non è ancora stato colmato del tutto, però secondo me ha le possibilità per andare avanti. Il fatto che Conte o li abbia troppo spremuti o non sia ancora riuscito a spremere fino al punto giusto, non credo, secondo me, perché comunque dal fatto che la Juventus comunque adesso la gente la conosce di più rispetto a prima, forse sì. Anche questo bisogna dire. Senti, ammetto che a fare le domande difficili, così Pardo fa bella figura. No, io non faccio una domanda, mi limito a leggere, Piero. Sì. Vai. Un giorno però lo fai tu, cambiamo ruolo. Voglio solo leggere un sms che giro a Zambrotta. Anche Prandelli è un qua qua qua per donne forti ed è integerrimo con i deboli. Lo scrive un ascoltatore che non si qualifica, non c'è nome. Ovviamente ogni riferimento è puramente casuale. Lo dico io perché Genta non lo può dire, perché gli contiamo, siccome devi sapere che lui è fissato con Balotelli, allora noi gli contiamo i Balotelli che dice durante la trasmissione. Non l'ho detto, infatti non l'ho detto. No, ma l'ho detto io, adesso sto 4-1, 5 Balotelli, 8-1, benissimo. No, a parte questo, ma questa scelta di Prandelli, codice etico, qualcuno dice, allora perché Balotelli viene convocato per le ultime due partite? Io ho fatto un sondaggio stamattina su Twitter, poi ti dico. Zambro? Sicuramente il mister avrà avuto comunque le sue, ci avrà pensato sicuramente, è una persona che comunque molto molto in linea con quello che dice e poi quello che fa, quindi secondo me ha comunque due partite secondo me fondamentali in questo momento, non ci si può comunque privare di un giocatore come Balotelli, perché Balotelli comunque pur avendo un carattere un pochettino complicato e difficile, però è sempre un grande talento, nel Milan quest'anno comunque sta facendo veramente la differenza ed è l'unico che comunque può creare pericoli e quindi lo può fare anche in nazionale, quindi privarsi in questo momento di un giocatore come Balotelli secondo me non Prandelli non se lo può permettere. Non se l'è sentito, insomma, un codice etico che si applica così un po' tarato su quella che è l'importanza. Sembra la decretazione d'urgenza in Italia, piena di buchi, di deroghe, eccetera. Beh, poi lo convoca però lo metti in panchina, questa secondo me è follia, perché ha ragione Zambrotta quando dice è un talento, convochiamolo, facciamolo giocare. Vabbè, no, comunque. Poi nessuno, ripeto, io non voglio assolutamente, c'è da punire il suo comportamento che comunque ha fatto vedere nella partita di campionato dove comunque si è tolto la maglietta e è andato a discutere contro l'arbitro. Questo il Milan lo sa benissimo e infatti non ha fatto ricorso anche perché sennò altrimenti andava comunque a caricare ancora di più la pena, quindi il Milan ha fatto bene. Per quanto riguarda, ripeto, l'aspetto di Prandelli, credo che abbia forse più pensato a queste due partite che sono fondamentali e non so, poi magari lo fa riposare magari dopo. Senti Zambro, ma è vero come ha detto ieri Massimo Oddo che non ci sono più i difensori di una volta, un po' sai le leggende tipo i treni che arrivavano in orario nelle mezze stagioni, sì. Non ci sono più i difensori di una volta? No, sì. Secondo me qualcuno ancora c'è, basti pensare comunque alla difesa della Juve che poi alla fine è la difesa della nazionale, quindi difensori così ci sono. Devo dire che comunque c'è stato un cambiamento, un passaggio di generazioni, si ricorda comunque la generazione di Cannavaro, di Nesta, di Maldini, di Costa Curta, di Tassotti che ancora... Dillo, ci sei anche tu in quella generazione, no. Dillo! Non essere timido, lo dico io, di Zambrotta. Ma lui faceva l'attaccante, dai. No, Zambrotta, quanti ruoli hai fatto? Esatto, hai fatto l'esterno a destra, l'esterno a sinistra, l'esterno basso a destra e a sinistra. Portiere sì, mai provato? No, portiere lo facevo solo quando ero piccolo, facevo il portiere volante, quindi Adesso sto provando anche a fare il difensore centrale, però addirittura. Vorrei tornare un po' all'ultimo anno, che poi sono ancora comunque a chiasso come giocatore e aiuto staff, e quindi mi piacerebbe magari provare a giocare un pochettino più avanti e divertirmi magari. Zambrotta centravanti, votiamo per Zambrotta centravanti. Grazie Gianluca. Ciao Zambro, grazie. Zambro centravanti, Zambro bomber vero. Dietro le punte, numero 10. Pardo, facciamo campagna stampa Zambrotta, sì, numero 10. Facciamola, copriamo la Svizzera di manifesti. Sì, sì, anche per la squadra di Radio 24, no? Grande. Faremo delle partite, giocheremo, no? Coinvolgeremo Cruciani, che ne so, Parenzo. Sì, come no? Che divertimento. Marizoni, Marizoni stopper. Ciao Zambro, grazie. Ciao a tutti. Sì, è un errore personale mio, è un errore di movimento a difesa, ha costretto la Juventus ad andare a tornare a casa con un punto anziché tre, ce li meritavamo perché avevamo ribaltato la partita dopo il mio infortunio, però purtroppo questa è l'Europa, quando sbagli di un centimetro tutti sono lì pronti ad approfittarne. Questo era Bonucci che si copre il capo di cenere. Non ci sono più difensori di una volta, ma Pardo, Borsa, poi torniamo, 800 24 00 24, già Salvatore da Vicenza è lì, aspetterà con noi e poi parleremo con lui. Tutti convocati. Siamo sul pezzo, Giorgio De Luca mi ha appena avvertito dalla redazione che Vucinic non giocherà la partita con il Milan, problema ai flessori. Pierluigi? Anche Lichtsteiner pare sia a rischio. Anche Lichtsteiner, sì. Insomma, altro problema. Invece qui ci sono vari messaggi, segnalo Luca da Pisa che dice Barisoni lo facciamo via. Giocare contro la Germania. Barisoni contro Merkel, uno contro uno, non va, vabbè. Non male, adesso vado a dire, glielo dico. Senti, ti propongo un viaggio al nord-est. Salvatore, sì, da Vicenza e Gino da Belluno. Benissimo. Salvatore. Buongiorno, siete grandi, una coppia d'attacco fenomenale. Classico accento vicentino, vero Salvatore? Io sono di Vicenza, ma sono di Fuorigrotta, sono un fuorigrottese, quindi lasciamo fare. Volevo toccare il problema dei calci di rigore. Negli ultimi giorni abbiamo visto un po' Real Madrid, no? I calci di rigore. Io, essendo un ex arbitro, ho studiato bene la situazione, quindi c'è stata un'evoluzione del cascatore, diciamo. Evoluzione della specie cascatore. Esatto, allora una volta era quello là che non veniva toccato, cioè entrava in aria, poi però non veniva proprio toccato e si buttava. Poi c'è stato il toccato poco, cioè appena toccava si buttava a terra. Sì. Poi c'è stato l'allargamento della gamba, cioè stiamo andando su un Luigi Rossi, toccato poco, l'allargamento della gamba, cioè comunque sono i 14:30, l'avversario e buttava lui la gamba verso l'avversario e l'arbitro picchiava. Adesso la quarta specie, l'ultima specie, la novità del mercato, l'attaccante tira giù il difensore. Qui l'abbiamo visto Real Madrid, abbiamo visto Balotelli. Io volevo solo sapere un attimino la vostra opinione. Grazie e buona giornata. dopo un'analisi così attenta, che altro si può aggiungere? Niente, evoluzione della specie cascatore. No, io dico solo che, Pier, la mia sensazione è sempre stata questa. Molto difficile valutare i contatti, ma molto difficile anche per la velocità a cui si va. Cioè, se uno viaggia in motorino e viene sfiorato, si rischia l'incidente. Cioè, vanno a una velocità talmente folle ormai nel calcio che è estremamente difficile anche percepire la volontarietà del cascatore o presunto tale. Quello della Juve c'era, secondo me, senza alcun dubbio. Un rigore ingenuo, perché Quagliarella doveva girarsi, non aveva 28-29 problemi da risolvere prima di tirare. Però poi comunque se tu gli vai contro, come ma il CID, se vieni da dietro in macchina puoi anche andare a 20 all'ora, ma è sempre colpa tua, ecco. Bello questo esempio. Belluno niente, Mantova, Andrea. Mi sentite? Sì, Andrea. Non so, vediamo. Prova. Sì. Vai Andrea, vai, non mollare, vai. Ok, perfetto. Io volevo un attimino parlare del codice etico della nazionale di Prandelli. Questa è tua, Pardo. Questa è tua, Sì. Non mi pronuncio. Dimmi. Perché secondo me è stato creato un pericolosissimo precedente, nel senso che adesso se ci sarà qualche altro calciatore che impazzirà e darà di matto fondamentale per la nazionale o anche non fondamentale per la nazionale, vorrò vedere quello che sarà il comportamento di Prandelli. Io fossi stato in lui, visto che queste ultime due partite, che ne dica Zambrotta, non mi sembrano poi tanto fondamentali, visto che ormai la qualificazione è arrivata, per non creare precedenti non l'avrei convocato, l'avrei lasciato a casa. Io non mi pronuncio. Io sono d'accordo. Sono d'accordo. Stamattina ho fatto un sondaggio che chiaramente non ha nessun valore statistico perché non sono né Pieboli né Mannheimer, ma su Twitter, e al momento siamo 341 dicono che, perché sono numeri piccoli, 341 a 57 che dicono che Prandelli, per coerenza con il codice etico, con l'esclusione di Osvaldo, con altre situazioni, non avrebbe dovuto convocarlo. C'è anche però un'interpretazione di un ascoltatore abbastanza interessante e smaliziata, che dice che essendo queste due partite non esattamente decisive, essendo la stagione molto densa e piena di appuntamenti, certe volte fai un favore al giocatore se non lo convochi, più che se lo fai venire col gruppo, perché comunque gli dai la possibilità di riposare. Quindi non sono d'accordo, perché c'è da costruire una squadra, però io non mi pronuncio, io se parlassi direi di Balotelli, direi che non sono d'accordo, però cioè l'avrei convocato. Io sono d'accordo con la convocazione. Ma cosa ha detto Prandelli? Tu l'avresti convocato? Sì, io sì. Io no, partendo dal presupposto ovviamente di Prandelli, cioè lo convocherai in assoluto, ma se uno poi fa il codice etico. Però c'è una squadra da costruire. Visto pure, che pure le Osvaldo occasioni in sono... Confederation doveva costruire la squadra, o no? Non lo so. Sì. Ma, mia opinione è questa. Cosa l'avrebbe convocato Serse Cosmi, secondo te? Non lo so, proviamo a chiederglielo. Sì, dai, chiediamoglielo. Buongiorno, mister. Buongiorno a tutti. Come stai? Bene, abbastanza bene. Scusa, ma oggi ho una curiosità molto che fa un allenatore alle 14:38? Che stai facendo? Ma adesso guardavo la televisione, insomma, che infatti... quindi niente di particolare. Dopo aver mangiato, sto qui, è una bella giornata, l'Umbria permette di poter vivere ottobre, questi periodi, con molta bellezza, insomma, quindi niente, le solite cose. Poi dal venerdì comincio a vedere le partite, ovviamente, del nostro campionato e quelle di Europa, diciamo così, quando c'è, come ieri, l'altro ieri, insomma, e stasera. L'avresti convocato o no? Ma io intanto faccio una premessa, perché non lo so se dipende un pochino dall'età mia, per molto probabilmente da quella, insomma, ma io sinceramente ancora questo codice etico completamente non l'ho capito, insomma. E siamo in due. Quello che significhi più o meno posso sforzarmi a capirlo, ma come si interpreta faccio un pochino più fatica, insomma, voglio dire, non lo so, io bisogna vedere che tipo di situazione, perché non si può secondo me applicarlo, sapevo, tutte nella stessa maniera, a prescindere, ci sono delle situazioni che mi sembra logico, anzi, sarebbe il giocatore stesso che non dovrebbe, per pudore non dovrebbe andarci, insomma, voglio dire. Ci sono altre situazioni in cui mi sembra logico passarci sopra, perché se penso ai decenni delle nostre nazionali, insomma, ci sono dei giocatori che si faceva riferimento al codice etico, insomma. Nazionale non ci andavano mai. O non ci andavano mai, o ci andavano una volta ogni due anni, insomma, voglio dire. No, quello che dico io, Serse, è che si tratta, cioè gli spazi sono pochi a disposizione di Prandelli, si tratta di costruire una squadra, dunque se un giocatore è funzionale alla squadra, poi si prenderanno i provvedimenti del caso, si parlerà col giocatore, eccetera, eccetera, però insomma gli spazi per costruire allora una squadra, scusa, sono pochi. Allora, scusa, poi lascio a Serse, sì. Allora perché lo fa il codice etico? Cioè, allora la domanda è molto questa, più la domanda è, la domanda è questa. Cioè che... Ma io... Scusate, io credo che sia una richiesta da parte della federazione, da parte dell'allenatore, dire, cioè, comportiamoci bene nel campionato, perché poi alla fine vengono scelti i giocatori migliori ma questa è una banalità, però Serse, per le loro qualità tecniche e anche comportamentali, ma ci sono giocatori che la storia del calcio ha insegnato che non riusciranno mai sotto l'aspetto comportamentale a essere da nazionale in tutto e per tutto. Allora, se tu hai due Balotelli, uno ne lascia a casa, insomma, nel senso che se il valore è identico puoi tranquillamente lasciare il Balotelli cattivo e portarti quello bravo, insomma. Ma se Balotelli è uno solo e in maniera inequivocabile il giocatore più forte che noi abbiamo, alla fine devi solo, secondo me, preoccuparti che il nazionale si comporti bene, quello sì, lui non può andare in nazionale, lui o chi per lui, e avere dei comportamenti, perché lì rappresenti qualcosa di diverso rispetto a quello che comunque rappresenti in un club, insomma, certo. Voglio dire. Quindi la preoccupazione è quello di che quando vanno in nazionale abbiano dei comportamenti sì. in linea con quello che significa essere certo. un giocatore nazionale. Ma questo, no. questo vale in è un valore assoluto, cioè è una banalità, che si comportino bene, ok, non vedo perché fare questo codice etico per poi ricorrere a continue deroghe. Sersi, invece, vorrei spostare il discorso sulla Juventus. Punto primo, ce la farà. Punto secondo, domanda da al mister Sersi Cosmi: perché la Juventus prende così tanti gol? Problema di difesa o di fase difensiva? Ma ieri la fase difensiva c'entra pochissimo, insomma, magari forse sul secondo gol c'è stata una disattenzione generale, insomma, voglio dire, perché è arrivata una palla lunga subito dopo aver realizzato il 2-1 e lì forse non erano pronti. Devo dire che c'è molto come gesto tecnico di Drogba, perché è andato a prendere una palla altissima, magari ecco l'inserimento dei due giocatori doveva essere contrapposto, voglio dire, invece non c'è stato, insomma, ma quindi vedo molto di più non la fase difensiva come problema, ma qualche errore individuale di troppo rispetto a quelli che faceva l'anno passato. Però globalmente la Juve non dà l'idea oggi, parlo oggi in questo periodo, di essere la squadra attenta a tutte le situazioni, quindi sbaglia qualche gol di troppo, una cosa che faceva anche l'anno passato, ne subisce qualcosa di più, non crea tantissime occasioni, non gioca ad un ritmo alto come riusciva a fare, diciamo, ha quasi sempre fatto in questi due anni, ma questo può essere un momento, insomma, voglio dire, non è detto che sia una prerogativa da qui alla fine dell'anno. Insomma. Palla di vetro, chi vince il campionato? Ma io vedo la Juve, la vedo comunque sia sempre favorita. È chiaro che è chiaro, insomma, si è avvicinato, il gap che c'era negli anni passati, come si dice, è stato non completamente, però quasi del tutto colmato, insomma, soprattutto da parte del Napoli. Poi ci sono squadre che si pensava potessero essere delle sorprese, però non in grado di tenere alla lunga, insomma, però Inter e Roma stanno dimostrando di avere le caratteristiche, diciamo così, per poter tenere fino alla lunga, e Fiorentina e Milan invece danno l'impressione di essere due squadre che oggi, diciamo, oggi soprattutto il Milan non hanno una continuità, però tutte e due non a caso sono martoriate da infortuni di giocatori importanti, quindi molto probabilmente c'è anche quello, insomma, che determina questa incostanza. Sì, poi sulle ragioni degli infortuni bisognerebbe aprire un altro capitolo, lo faremo un'altra volta. Ultima per quanto mi riguarda, Arrigo Sacchi dice: in Europa il calcio è d'attacco tranne che in Italia, in Spagna si dice che per vincere la Liga serve segnare gol, in Italia si dice che vince chi ne prende di meno, a parte che la Liga è un campionato finto. Sei d'accordo con lui o no, Serse? Ma in parte, voglio dire, sì, no, ma Sacchi non fa altro che riproporre quelle che sono dei sistemi, cioè dei sistemi, delle filosofie di calcio, insomma, voglio dire, quindi non credo che non ci sia niente di nuovo, che gli spagnoli vedano il calcio in una maniera, noi lo vediamo in un altro, ma non necessariamente poi, non necessariamente, perché comunque sia, credo che gli allenatori italiani hanno vinto anche in Spagna prendendo pochi gol, insomma, e credo che non è che fossero particolarmente delusi. Poi dopo, nel momento in cui non vengono risultati, loro fanno sempre riferimento alla spettacolarità del gioco, insomma, voglio dire, però io credo che rimango, cioè mi dispiace anche doverlo essere proprio per mia natura, però io il calcio forse è l'unica cosa che ritengo equilibrata in campo, cioè quindi secondo me ci vuole un equilibrio tattico, quindi le squadre iperoffensive non mi sono mai piaciute, lo dico, e magari farò del male a qualcuno, insomma, voglio dire, come le squadre iperdifensive non mi sono mai piaciute. Le grandi squadre sono quelle che sanno attaccare e difendere, non dico in egual misura, però in modo equilibrato, equilibrate, quindi mi piacciono le squadre equilibrate, e quando le squadre non ottengono i risultati, a mio giudizio, una delle due fasi non funziona. Grazie Serse. Ciao Serse, ricorda di oltre alla TV di seguire anche Radio 24. Dopo abbiamo Gegè Telesforo, vabbè, poi c'è Matteo Caccia. È vero che c'ho tanto tempo, però dice, no, ho detto la TV, ma poi alle 4 esco, 3 e mezzo. Sì, ma sì, l'auricolare ne hai via. Facoltà, come dicono in Parlamento, ne hai facoltà. Puoi uscire, grazie, grazie il Parlamento Serse. Parla, va bene, quando viaggio in macchina, che lo faccio spesso, sarò vicino. Ciao Serse, grazie. Ciao a tutti, ciao. A proposito di macchina, strade parlo, strade, traffico. Come tutte le persone che vogliono bene a Mario. Le persone che non vogliono bene a Mario probabilmente non si sono arrabbiate, gli hanno magari detto anche bravo. No, no, avremo modo di parlare, ma non c'è niente da dire. Mi sembra che la società Milan sia stata esemplare da questo punto di vista, non ha fatto ricorso, quindi questo per me è già qualcosa di significativo. Quindi sarà Coverciano? Sì. Se la squalifica intercorre e scade proprio prima della convocazione, non possiamo punire su una punizione. Quindi sarebbe aggravare una situazione che è già abbastanza difficile. Tutti convocati. Dunque, Varese, Pesaro, Prato. Questa è la mappa dei convocati. Enrico Giulio Vittorio? Bravo. Ma sto imparando, eh. Enrico, partiamo da lui? È certo che partiamo da lui. Enrico. Enrico? Enrico, eccomi. Eccoci. Buongiorno, complimentissimi, siete veramente formidabili. Grazie. Senta, io sono un vecchio interista e sto impazzendo per il ragazzino Kovacic. Mi piace da morire, volevo una vostra opinione e sapere se questo ragazzino potrebbe dare un'impronta diversa all'Inter, cioè portare l'Inter scagnarsi dalla classifica. Volevo un vostro parere. Per adesso l'abbiamo visto abbastanza poco. Buon giocatore, pagato non poco, in un momento in cui l'Inter doveva fare qualcosa assolutamente quel gennaio, fra l'altro, insomma, non è un mistero che si affidò alla mediazione di Bozzo, che è uno dei procuratori top che ci sono in questo momento per andarlo a pescare. Giocatore molto interessante. Credo che c'è un momento nella vita dei giocatori giovani in cui si fa il salto. Secondo me non è ancora arrivato dal punto di vista, però è giovanissimo. Quindi... Anche perché doveva essere negli intenti e nelle intenzioni titolare fisso. Mi sembra che non lo sia ancora nell'Inter. Però in quello, secondo me, c'è anche un po' la mentalità di Mazzarri, che sappiamo, certo, fino a questo momento i risultati gli danno ragione. Sceglie molto spesso la continuità, l'esperienza, i titolarissimi, insomma, dei concetti abbastanza tradizionali da questo punto di vista. E fino a questo momento ha ragione lui. Poi dicono Taider è molto giovane, però ha un altro ruolo, è un altro tipo, sì, di giocatore. Esatto. No? Perché Kovacic, nelle intenzioni e insomma nelle speranze dei suoi tifosi, deve diventare veramente il centrocampista tutto tondo che sa contenere, ma soprattutto sa impostare, quindi ha bisogno anche di esperienza. Però insomma sicuramente è molto interessante, non credo ci siano dubbi. Adesso andiamo a Pesaro, però hai sentito che stanno oggi alla FIFA, decidono se spostare il mondiale in inverno, quello di quella pagliacciata. Ma possiamo giocare anche a 65 gradi, ma che c'è? L'importante è che le postazioni commento siano fatte con l'aria condizionata, c'è, posso che dire. Chiaro, no, sì. Ma che è, ma infatti. Sì, no, sì, vabbè, è una delle, sai, che fanno più, anche una statua lì, l'hai letta questa? Quale? Cioè, questa agenzia di oggi sta per essere eretta a, Giulio stia lì, Giulio e Vittorio state lì, sta per essere eretta a Doha una statua di 5 metri che rappresenta il giocatore francese Zinedine Zidane mentre dà un colpo in testa, all'italiano Marco Materazzi. Hanno fatto prima la statua della finale di Berlino, da quanti anni c'è sta cosa? La statua dal titolo Coupe de Tête. Pure Coupe de Tête. Pagliacciata dove totale. Tête vuol dire testa, perché, sì, insomma. Giulio da Pesaro, vai. Giulio, linea 5. Giulio, vai. Salve, salve, mi sentite? Sì. Niente, complimenti innanzitutto per la pacatezza e la sportività con cui del programma. Pacati? Noi? Sportivi? Noi. Sì, sportivi, voi. Sportivi, sì. Dai, pacati, insomma. Pacati con la C, perché dove pacati è? Fa sempre assonanza con pagati, insomma, voglio dire. No, io volevo solo esprimere un parere. Praticamente qualche giorno fa ricordo che un tifoso della Roma, come anch'io sono tifoso della Roma, disse che alla Roma quello che mancava erano la coppia di centrali difensivi tipo Bonucci e Barzagli. Adesso non per l'errore di ieri sera, perché volevo dopo averli visti ieri prima. Sera, forse anche no. No, non per ieri, già da prima volevo dire. Secondo me, onestamente, la porta della Juventus gli anni scorsi non era tanto Bonucci e Barzagli, ma anche il centrocampo che faceva prendere pochi gol. Sono d'accordo. Il centrocampo con Marchisio. E secondo me Benatia e Castan onestamente non hanno niente, vorremmo un giudizio vostro, per me non hanno niente. Guarda, da Benatia mi piace molto, Castan meno, ma Benatia mi piace molto. In 30 secondi ti dico, Benatia avevo dei dubbi perché lui aveva giocato quasi sempre a 3 e anche a 4 si sta confermando un giocatore importantissimo. Castan l'anno scorso praticamente non si era mai riposato e questo potrebbe essere stato l'origine di una stagione non certo fortunata, ma io credo che la madre di tutte le motivazioni sia che quest'anno c'è l'equilibrio, il famoso equilibrio di cui parlava Serse Cosmi un minuto fa. E un anno fa c'era una squadra che per 90 minuti giocava sempre nello stesso modo, parlo con Zeman, a tavoletta, in alcuni momenti era bellissima, in altri momenti perdeva fiato e perdeva lucidità. E quest'anno fare il difensore della Roma è molto più facile che farlo l'anno scorso, che averlo fatto l'anno scorso. Insomma, non credo che ci siano dubbi. E farlo questo, Juventus è più difficile rispetto a quanto non fosse l'anno scorso, aggiungiamo. Perché c'è un po' di intensità in meno. Ho l'impressione che comunque quella difesa sia meno protetta dal punto di vista anche agonistico rispetto a quanto non fosse l'anno scorso. Se il primo gol di ieri se lo fanno da solo, insomma, questo sì, a prescindere dal gol di ieri. Vittorio Prato, buongiorno. Oh, buongiorno, finalmente convocato. Come finalmente? Dai, Vittorio. Mi ero stancato di far panchina. Vittorio, ma noi ti sei chiamato tutti i giorni, tu non c'hai mai un rispondevi. Eri sempre occupato. Grande Vittorio, dici. Allora, rossonero fin dalla nascita. Sì. Quanti anni fa? Ex calciatore, ex arbitro. Addirittura? 76 anni. Eh? Allora, a proposito della convocazione di Balotelli, io esprimo la mia opinione. Che io non che commento. Che può essere anche una provocazione. Andiamo bene. In considerazione della qualificazione acquisita dalla nazionale, la convocazione di Balotelli mi suona come una penitenza. Quello che dicevamo prima, cioè ora io non ho io faccio il rappresentante, sono sempre a giro, sicché non la sento sempre la trasmissione. No, ma lo dicevamo Vittorio 10 minuti fa, cioè c'è anche una scuola di pensiero che dice che essendo queste due partite essenzialmente inutili e essendo la stagione ovviamente densa, piena di impegni, forse una convocazione in questo momento non è che sia un premio così clamoroso. Io penso che la maglia della nazionale, al di là della retorica, è sempre un premio, perché insomma penso che noi tutti, anche chi è scarso come me, gente a giocare a pallone, soprattutto gente, sogna quella maglia fin da bambino, no? Quindi non dovrebbe esserlo mai, però probabilmente in una stagione così lunga due partite così sono anche, non dico un problema, ma insomma non un premio. Il dibattito rimane aperto, grazie a Vittorio. Genta, che c'è adesso? Niente, c'è il GR. La vita va avanti, c'è il GR. Ma poi torniamo, perché come sempre, come ogni giorno, fino alle 15:20 siamo qui. Tutti convocati. Allora, carina la dichiarazione di Tevez al mensile, al magazine della Juventus. Gioco come quando ero nel mio quartiere, senza pensare alla maglia che indosso, la numero 10. Poi aggiunge: non pensavo che fosse così semplice il campionato italiano, pensavo fosse il gioco fosse lento e facile, invece più difficile, il più difficile in cui abbia mai giocato. Sicuro hanno tantissimi dettagli. Personaggio grande, molto affascinante, molto affascinante. Cioè tutto questo tema della tutte queste dediche che lui fa per i quartieri popolari di Buenos Aires e dell'Argentina, e ovviamente anche quello che abbiamo saputo del suo inizio di carriera, possiamo dire, la prima volta che giocava per strada in ambienti non esattamente, diciamo, altolocati o tranquilli, ecco, insomma, personaggio in un clima non semplice, come molti giocatori americani di basket che escono dal ghetto, e Carlitos Liss è formato in quel quartiere Fort Apache in cui la polizia non può entrare. Poi tu sai, Pierluigi Pardo, che io dormo con la camisetta albiceleste, quindi non sapevo questa cosa, questo particolare, diciamo, te lo dico io. Donne feticiste all'ascolto, naturalmente sono numero 10 Maradona. Vabbè, chiaro. Sta claro. De che hablamos, no? No. Bueno, senti, io adoro De Laurentiis anche perché ti vuol far lavorare fino a notte fonda. Roma-Napoli a mezzanotte. Visto che sai che non cioè, c'è questa disputa. A mezzanotte? Giocate a mezzanotte? No, non si può giocare, cioè, all'orario canonico, nel giorno previsto, perché c'è questa manifestazione in ottava. Non si sa quando mettere questa partita. Allora De Laurentiis esce. Giochiamola a mezzanotte. E Pardo in cabina di commento. No, ma io ti dico che così il fanciullino che c'è in me gode di fronte sì, a un del genere. Ma sì, è bellissimo. Sì. Però insomma, diciamo astrattamente è bellissimo, no? come evento spettacolare per l'anno, perché sarebbe comunque un evento, una partita a mezzanotte. Poi ci sono tanti problemi, ovviamente. Poi i giornali, la chiusura dei giornali, lasciamo stare i giornali, sicuramente chiusura dei giornali. Mezzanotte non è esattamente prime time, sì, però voglio dire, neanche le 18 sono prime time, quindi poi alla fine, da quel punto di vista, siamo quasi pari. E poi insomma, anche i tifosi, no? A noi piacciono, penso siamo tutti d'accordo, piacciono gli stadi pieni, con i tifosi che fanno le trasferte, che si comportano bene. Insomma, cerchiamo anche di aiutarli, magari farli tornare alle 3 di notte da Roma a Napoli. Può essere, magari c'è meno traffico, questo può essere un vantaggio, però poi no, in assoluto si può fare partita più rave fino al mattino. In assoluto non è male, non è male come idea. Poi ci sono dei precedenti al mondiale, al prossimo mondiale ci saranno partite che si giocheranno anche molto tardi. La finale di Champions League fra Manchester e Chelsea, complice il fuso orario, finì dopo la mezzanotte, intorno all'una di notte, quindi non è una cosa. In Spagna spesso qualche volta il classico si è giocato alle 23 anche, quindi alle 23 anche. Insomma, bello, a me piace. Dove si firma? Dove si può firmare? No, comunque posso dire questa cosa qui, adesso vedremo come andrà a finire, e ovviamente grande rispetto per il problema ordine pubblico, ci mancherebbe altro, che una partita che non si riesca a trovare una soluzione per poter assicurare regolarità all'evento, al campionato, mi sembra veramente una sconfitta. Ecco, se alla fine si arriverà all'inversione, mi sembra la norma in questo paese, non so, sarò malizioso io, però sembra semplicemente la norma in questo paese. In Spagna secondo te giocherebbero a mezzanotte? Secondo me sì, ma glielo chiediamo. Ti presento Filippo, ti presento Filippo Maria Ricci. Oh, buon pomeriggio, eh? Buon dia, che faccia, Todo bien? Se siete romani di Roma, che parlate spagnolo? Bello, è chiaro. Bella, sì, ma alle 15:10 a Madrid cosa si fa? Si mangia, no? È l'orario... Qua, a che ora hai detto? È adesso, alle 3:10. Io mi sono appena seduto a tavola, sì. Ok, che cosa presenta la comida come es? Facci sognare. No, è qui un'insalatina oggi, perché qua... Ricci a dieta. Non è niente di speciale, non è che c'è il solito sulle tonne, non è che qui è sempre domenica. Come, sì, ma Benedetta non prepara. Non c'è la bottiglia di vino rosso da 18 gradi e sulle tonne tutti i pranzi, perché altrimenti comunque questa è una delle cause della crisi della Spagna, secondo me. Però è anche della tua. Senti, ma Filippo, dimmi di questo Atletico Madrid, che insomma mi sembra la squadra del momento. Il ciolismo che impera, il ciolismo, Simeone. Simone in grande spolvero, grande forma, è riuscito a dare, no, perché uno forse si dimentica, è arrivato alla fine, nemmeno 2 anni fa, cioè un Natale tristissimo per diciamo la Madrid biancorossa, erano insomma veramente in disarmo, e in pochi mesi ha fatto vincere, no, in Europa, poi la Coppa del Re a casa del nemico, adesso sono in testa, record, 7 vittorie su 7. È una squadra piena di spirito, con dei buoni giocatori, però non c'hanno una lira, quindi devono anche vendere Falcao, però uguale, insomma, vanno avanti attaccati al loro capitano, che è Simeone, che li sta portando su un terreno ultimamente sconosciuto, e non so quanto potrà durare, perché la rosa non è enorme. Però intanto, insieme al Barcellona, è l'unica squadra che ha vinto tutte le partite in Champions e tutte le partite in campionato. Sì, compresa quella sono Madrid. I testimonial migliori dell'Europa League, nel senso che è l'unica squadra al mondo che ha approfittato dell'Europa League, non considerandola una sfiga. Ma come succede da noi in Italia. Come succede, no? Spesso, uguale. Occasione per... League, no? Uguale. Non vediamo chi vince il campionato, no? Di solito chi fa l'Europa League poi è in corsa fino alla fine per vincere la Serie A, ovviamente, no? È chiaro. Sì. In realtà è in corsa per andare in Europa League, perché il vero paradosso è questo, che tu c'hai le ultime giornate di campionato, le squadre che si massacrano, vogliono andare in Europa, poi vanno in Europa League e fanno turnover. Però forse quest'anno no. In bocca al lupo a Fiorentina e Lazio, che giocano stasera. Senti Filippo, ma l'avrebbero giocata a mezzanotte, Roma, Napoli, dalle tue parti? Come no? Noi abbiamo avuto tante partite di campionato alle 11, una volta ci fu anche la mitica spezzone di partita che doveva essere giocato nel giorno dopo, e quindi cominciò tipo a mezzanotte, uno dovevano recuperare un quarto d'ora, era una partita famosa, adesso mi presento sfugge, con Real Madrid e non so se il Saragozza è un'altra partita, comunque qua si gioca a tutte le ore, non c'è problema, insomma la notte è giovane e quindi perché no? Il senso de pennica aumenta, però vabbè. Esatto, cioè, dormi un po' di più la mattina, dormi anche il pomeriggio e poi la sera, però di notte leoni, no? Sì. E di giorno lascia stare. E con la maniana, cabrone. Bueno. Ho visto il derby di Madrid. Carletto Ancelotti, a proposito di pranzo e cena, mi è sembrato un po' dimagrito. Però il Real non mi è sembrato una gran cosa. Sarà lo stress, sì. Ma posso dire una cosa? Ancelotti è dimagrito da 3 anni, no? Perché ogni tanto c'è questa cosa. Ancelotti è dimagrito 3 anni fa, veramente lo dico. No, me lo dicono tutti. Ancelotti è perché noi siamo abituati all'Ancelotti italiano che era un po' in carne, no? Poi invece è diventato come magenta, quindi addirittura scheletrico a tratti. Deve ingrassare un po' il Real, però, perché l'ho visto un po' patito nel derby. Non mi è piaciuto per niente. Molto patito il derby, ieri meglio, però ovviamente era contro il Copenaghen, che non è esattamente un test spettacolare. È stato fischiato il nome di Ancelotti in avvio e lui ha detto con grande filosofia, ha detto no, i fischi fanno bene, aiutano a crescere più o meno. E sempre no, molto molto simpatico, molto a suo agio, però è chiaro che ci sono diversi problemi. Florentino Perez gli ha smontato la squadra più o meno. Sì. Voleva far sì che questo Madrid tenesse palla, giocasse col possesso, gli ha venduto Sille, gli ha preso Bale, che praticamente insomma non, la palla non, ovviamente non la può tenere perché ha altre caratteristiche. Sì, poi l'ho visto anche giocare a destra. Però scusate, gioca a destra perché a sinistra Isco. Quindi sì, e poi comunque il povero Bale è stressato da questo cartellino da quei 100 milioni scritto sopra che gli hanno attaccato al collo, quindi si continua a far male a livello muscolare, che sono tipici infortuni da stress psicosomatici. E niente, adesso è stato anche convocato col Galles, quindi ieri Giorgi diceva adesso ce lo teniamo qui 15 giorni, facciamo fare la preparazione. Benissimo, adesso se ne va col Galles senza giocare. La vedo male, questa è una storia, questa storia di Bale, non lo so. Più forte Ranzi o Bale? Carlo un po' vittima della bulimia economica del presidente. Più forte Pier? Ramsey o Bale? Più forte Ozil di sicuro. Sì, tra i tre scelgo Ozil, tra i due scelgo Bale, tra Bale e Ramsey, però lo scelgo in Inghilterra. In Spagna già non lo so, perché comunque è inutile che ci veniamo a raccontare, cioè i britannici soffrono quando vanno fuori, e in più se arrivano appunto con un'etichetta così pesante soffrono di più. Questo vuol giocare, non ha fatto la pretemporada, scusate mi è scappato in spagnolo. Qui c'è il partito di Ramsey, ho incassato anche ed è uno che ha sempre sofferto a livello muscolare, deve carburare. E vediamo, insomma, ecco. E in più, ecco, senza Ozil, alla fine l'unico che tiene palla è Isco. Ieri sera ha fatto giocare un pochino più avanzato Modric al posto di Isco. Vediamo, insomma, Ancelotti ci sta provando e ovviamente la squadra non è male. E poi soprattutto ha un certo Cristiano Ronaldo che risolve parecchi problemi. Sì. Però, insomma, siamo ancora... alle prove tecniche di trasmissione. Lavori in corso. Sì. Grazie, grazie Phil. Grazie Ricci, anche se devo dirvi che qui c'è il partito di Ramsey che abbiamo appena fondato io e Valerio, che benissimo. Che è il fonico, sì, che è assolutamente non mi iscrivo. Ramseyan, ma non giocatore straordinario, aspetta 2 anni, vedrai che cosa diventa. Senti, domani Ramsey. Domani sì. Facciamo una promessa, daremo molto più spazio ai convocati che sono sempre numerosissimi e che oggi abbiamo, insomma, non abbiamo sentito come avrei voluto. Ecco. Va bene. Domani alle 2. Pierluigi Pardo. È finita così? Sì, 15:17. Sì. Bravo. La vita, l'amore dà e l'amore toglie. Ciao. Andiamo a sentire Giuseppe Lesforo, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia. Ciao a tutti, a domani. Ciao.